Dividete la distanza, 162 per 10 all'ottava chilometri, per una unità astronomica, che equivale a 15 per 10 alla settima chilometri. Sapendo già che 162 diviso 15 risulta 10,8, quante unità astronomiche separano la stazione dalla vostra posizione?